Italia in controluce, la politica nel tunnel. Controluce dedicato alla situazione difficile in questi giorni, situazione politica davvero complicata, un governo che non si vede ancora all'orizzonte, un Napolitano che da un lato dovrebbe conferire l'incarico a Bersani così come vorrebbe la prassi, dall'altro però deve fare conti con i grillini che prima aprono, poi aprono ad un governo tecnico, poi stamattina la marcia indietro. Fra pochissimo sentiremo dalla voce di Crimil, Grillino Crimil, nuovo capogruppo al Senato del Movimento 5 Stelle. Qual è dunque la sua posizione? Prima ci colleghiamo con Roma e con il nostro Vincenzo Miglietta perché c'è una notizia proprio di questi minuti. Vincenzo. Sì Piera, buongiorno, è così e non ci sarà alcun anticipo della convocazione delle Camere come voleva invece il Capo dello Stato. Napolitano poco fa ha spiegato che difficoltà di vario ordine non consentono l'anticipazione, queste difficoltà si presume siano legate proprio agli adempimenti relativi alla Corte Costituzionale, alla Corte d'Appello, adempimenti di rito. Questa situazione garantisce comunque Napolitano, consegna un ampio spazio per una proficua fase preparatoria delle consultazioni, quindi consultazioni con più tempo, più distese, diciamo, non c'è più tanta fretta, insomma. Ecco, ma torniamo però ai grillini perché stanno un po' segnando, come dire, il passo di queste giornate politiche. Ieri le parole del neo capogruppo al Senato, il grillino Vito Crimi, che sembrava ventilare un'apertura ad un governo tecnico, come dicevamo. Poi stamattina invece il suo messaggio su Facebook, preciso che non ho mai parlato di appoggio a governo tecnico, l'unica soluzione che proponiamo è un governo del Movimento 5 Stelle che attui subito e senza indugio i primi 20 punti del programma e a seguire tutto il resto. Così diceva Crimi su Facebook, annunciando peraltro 48 ore di silenzio stampa, un silenzio stampa che però la nostra Anna Marino è riuscita in parte a violare. Allora sentiamo cosa è riuscita a strappare al telefono a Crimi. Non c'è nessuna apertura al governo tecnico. Guardi, farò una dichiarazione con un video nel pomeriggio. Sarà pubblicato sul blog, così sarà chiaro per tutti quello che intendiamo. Quindi la dichiarazione che è stata ripresa questa mattina non aveva quel senso. Quello che ho scritto su Facebook era appunto una piccola precisazione, ma nel pomeriggio scriverò una cosa con calma, tranquillità e un video in cui spiego tutto. Va bene. Quindi non è un'apertura al governo tecnico, è soltanto una precisazione che voi non votate la fiducia. Assolutamente. Certo. Senta, quindi niente, adesso in questo momento attenderemo la sua precisazione, mentre le parole di stamattina sono state travisate. Non lo so, ecco, sinceramente non ho visto come sono state travisate o come e cosa. Se è stato travisato, è stato travisato qualcosa di ieri pomeriggio, probabilmente, alla conferenza stampa. Ecco, che era l'affermazione che riguardava appunto no al voto di fiducia, questo appunto rimane fermo. Sì, questo rimane fermo. Mentre per quanto riguarda il governo tecnico preciserà oggi pomeriggio e non voleva dire questo con quelle parole. Sì, assolutamente sì. Questa l'intervista o comunque insomma qualche frase strappata stamattina al silenzio di Vito Crimi. Poi subito dopo anche le parole, ossia i messaggi sul blog di Beppe Grillo. Il Movimento 5 Stelle non darà la fiducia a un governo tecnico, né lo ha mai detto, precisa Grillo. Non esistono governi tecnici in natura, solo governi politici sostenuti da maggioranze parlamentari. Il governo Monti è stato il governo più politico del dopoguerra. Nessuno prima aveva mai messo in discussione l'articolo 18 a difesa dei lavoratori. Il presidente del Consiglio tecnico è un'enorme foglia di figo, dice Beppe Grillo, per non far apparire le vere responsabilità di governo da parte di PDL e PD-L. Il gioco di parole che usa l'ormai ex comico. E noi torniamo invece a collegarci con il nostro Vincenzo Miglietta, perché dicevamo che a questo punto la notizia di poco fa che Napolitano dice è impossibile l'anticipo della seduta delle Camere, dà maggior spazio alle consultazioni, quindi che cosa può accadere, quali sono i giochi che si stanno promuovendo a Roma? Sì, le ipotesi in campo sono tante. Aggiungo solamente un'altra notizia degli ultimi minuti, è la presenza del sindaco Renzi a Palazzo Chigi a colloquio con Monti. Ognuno di noi ne può dare la propria interpretazione. Ufficialmente Monti in questi giorni vedrà i vari leader politici ai fini del Consiglio Europeo del 14 e vedrà anche Grillo prossimo, peraltro, sdoganandolo come leader politico. Assolutamente, però ci domandiamo cosa significa giustifichi la presenza di Renzi, essendo attualmente comunque il sindaco di Firenze. Torniamo alla tua domanda, alle ipotesi per un futuro governo. Al momento abbiamo l'ipotesi più istituzionale, sarebbe un incarico esplorativo a Bersani, che cercherà quindi di trovare i numeri per avere la maggioranza al Senato, avendola ampiamente alla Camera. Una missione questa di Palazzo Madama, però per alcuni quasi impossibile, potrebbe riuscire solamente attraverso delle intese incrociate su un gioco di presenze in aula o meno al momento del voto di fiducia. E l'altra ipotesi più accreditata sembra quella invece di un esecutivo di scopo che realizzi 2-3 punti ben definiti e guidato da una personalità cosiddetta terza, in questo caso l'attuale ministro dell'Interno Cancellieri sarebbe tra i favoriti. E più difficile invece che Napolitano consenta a Monti, all'attuale governo tecnico, di traghettare il paese verso un nuovo voto. E tra le voci, Piera, che circolano in queste ore, e infine vi è anche quella relativa invece a dimissioni anticipate proprio di Napolitano, per fare in modo che sia poi quindi il successore a risolvere il nodo del governo. Grazie Vincenzo, resta con noi ancora qualche istante, perché citavi Anna Maria Cancellieri, l'attuale ministro dell'Interno, dunque una donna molto autorevole, che peraltro ha saputo dimostrare di risolvere più di una situazione critica. Allora sentiamo questo ritratto preparato dalla nostra Anna Marino. Non penso nulla, perché non sono pensieri che mi appartengono, tocca ad altri. Queste le parole pronunciate soltanto ieri nella Catania, dove è stata prefetto, da Anna Maria Cancellieri, di cui ora si parla come possibile premier o capo dello Stato. Non si sbilancia il ministro dell'Interno tecnico del governo Monti, perché non ha la più pallida idea, dice. Nessuno di noi ha la sfera di cristallo, neppure sull'attuale situazione politica. Il governo? Non mi sono fatta nessuna idea, perché non si è ancora formato, ha detto, e tantomeno sull'ipotesi di poter essere il prossimo capo dello Stato. Cancellieri infatti risposto: io vengo qui per fare un lavoro del ministro dell'Interno. E la seconda donna di sempre al Viminale, Anna Maria Cancellieri, classe 43, nata a Roma e prefetto di lungo corso, inizia a lavorare a 19 anni alla presidenza del Consiglio. Le sue radici sono in Libia, il padre ingegnere viene da Tripoli, laureata in scienze politiche nel 72 a Milano, inizia la carriera al Ministero dell'Interno e nel 93 è nominata prefetto. È chiamata a risolvere situazioni difficili. Oltre che di Catania, è stata prefetto di Vicenza, Bergamo, Brescia e Genova. Nella città siciliana ha ricoperto anche il ruolo di commissario del Teatro Bellini. In pensione dal 2009 è stato commissario prefettizio a Parma dopo l'abbandono di Pietro Vignali e prima dell'arrivo del sindaco grillino Pizzarotti. È stata commissario straordinario a Bologna per 15 mesi, traghettando il comune dallo scandalo che travolse Del Bono fino alle elezioni del maggio scorso, vinte da Virginio Merola. La cancelliera è stata prefetto nella città di Catania nel delicato periodo che seguì l'uccisione dell'ispettore Filippo Raciti. Durante questo mandato per il governo Monti hanno sì fatto discutere le sue parole sul lavoro. Noi italiani stiamo fermi al posto fisso nella stessa città di mamma e papà, ha detto, di cui però si è scusata subito. Una frase infelice che è suonata come una mancanza di rispetto. Ma sono rimasti più impressi gli appelli a non astenersi durante le ultime elezioni. Votate, votate, votate, ha detto la Cancellieri, perché attraverso il voto si esprime la libertà e la democrazia. E il ministro dell'Interno aveva poi promesso: il Viminale sarà una casa di vetro. E per Anna Maria Cancellieri, che come suo primo atto nell'esecutivo ha riportato il governo alla commemorazione della strage di Bologna, in primavera potrebbero aprirsi le porte del Colle. Dunque, le ultime notizie, ve le ricordiamo: Renzi, il sindaco di Firenze, ma per qualcuno, insomma, quello che se avesse battuto Bersani alle primarie, forse non ci troveremmo ora in questa situazione. Renzi, dicevamo, si trova in questi minuti da Monti. Napolitano poco fa invece prende tempo e dice che non si possono anticipare non si può anticipare la prima seduta delle Camere, quindi c'è più tempo per le consultazioni. Naturalmente su questi temi continueremo a ragionare nel corso dei GR24 del pomeriggio, e io ringrazio Anna Marino per avermi aiutato a realizzare questa puntata di Italia in Controluce. Grazie a Roma al nostro Vincenzo Miglietta, che ritroveremo alle 16:45 sul nuovo approfondimento dedicato proprio al delicato momento politico che stiamo vivendo. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. America 24, poi alle 14 il nuovo GR. Un saluto da Maria Piera Ceci.